siamo in onda, oggi è 18.50, madonna, pure in anticipo, incredibile, non si inizia in anticipo, però fa niente. Oggi è il, che giorno è oggi? Il 15, e abbiamo deciso col collettivo di fare più dirette possibili e intrattenervi a livello sia informativo, ma anche, diciamo, oggi è un po' diversa, non è la solita pillola che è uscita negli altri giorni, sono un po' diverse, dopo ve le rielenchiamo, anche perché stanno uscendo i podcast di Radio ZAM che potete ascoltare sul nostro canale Mixcloud. E Norbi, a debita distanza, con tutte le misure di sicurezza, raccontiamoci due cose, come stai? Ma guarda, anche io sto vedendo un po' anche in casa momenti di difficoltà, insomma, con soggetti più deboli, esposti alla malattia, però io generalmente adesso sto bene. Non venivo a ZAM da un po' di tempo, sono venuto a fare la radio oggi, quindi diciamo io sto bene, ma in giro si vede un po' questo mortorio, questa differenza, e tra l'altro questa diffidenza che sta nascendo tra di noi ogni giorno. Tu invece che ci racconti? Guarda, io sono del tuo stesso identico parere, anche perché stamattina mi sono svegliato un po' male in realtà, e mi è capitato di fare un giro in questo quartiere, perché ho la fortuna di dormire qui in zona adesso da solo, e tornare in questo quartiere per me è molto bello, è sempre una sorpresa, rincontro i vecchi vicini di casa, una volta abitavamo qua, e di solito le reazioni sono molto belle, ci si stringe, ci si abbraccia, ci si bacia, ci si chiede come sta, eccetera, si passa anche magari diverso tempo a chiacchierare, nonostante non ci si veda quasi mai più, perché io ho 3 anni che ho lasciato questo quartiere. Stamattina ho incontrato i vicini, non è stata una bella esperienza. Non voglio dire, cioè, nel senso, non è una critica, però mi rendo conto che effettivamente l'umore delle persone si sta intaccando in questo momento, e la mia paura è che sia irreversibile. Nel momento in cui si instaura una paura, è giusto che quella paura vada, tra virgolette, curata. E prendersi cura delle persone in un momento in cui non puoi toccarle non è facile, quindi cerchiamo di stringerci il più possibile, anche soltanto con le parole, anche soltanto con dei gesti anche da lontano, e di tollerarci, perché è un momento in cui abbiamo bisogno di tollerarci, perché purtroppo questa cosa del virus, e dopo ne parleremo anche per la lettura che seguirà, è un problema nel momento in cui chiunque diventa potenzialmente il nemico. Quindi l'estraneo, se una volta la retorica di questo bellissimo paese molto razzista era che l'estraneo arrivava sui barconi, o che l'estraneo era quello che magari dormiva sulle panchine o ti rubava le cose e non lo conoscevi, potenzialmente l'estraneo adesso è un pericolo per tutti e per tutte. Cerchiamo di sconfiggere questa narrazione, che secondo me potrebbe rivelarsi molto tossica nel momento in cui usciremo da questo contesto, e continuiamo a fare queste cose, teniamo il morale alto il più possibile, non è facile. E niente, vi aggiorniamo un po' sulle pillole che sono uscite in questi giorni. Norberto, se ne vuoi leggere magari la prima, che abbiamo trattato con Stefano l'altro ieri. La prima pillola del nuovo mondo parla di coronavirus. Esatto. Certo. Raccoglie, diciamo, le domande più frequenti e le risposte che si ricercano a queste domande. La prima che arriva una differenza, quella tra virus e batteri, che non è chiara ai più e non è chiara a quasi nessuno, e invece è molto importante ed è fondamentale. Le medicine efficaci contro batteri e contro i virus, che sono anch'esse differenti in quanto virus e batteri sono due cose differenti. La differenza tra i virus DNA e virus RNA, qua comunque si comincia a entrare nello specifico, ma sempre in cose abbastanza importanti e fondamentali da capire, soprattutto per essere ben informati in situazioni problematiche come queste. Cosa vuol dire che un virus muta? E perché il coronavirus è così pericoloso? La SARS, che ricordiamo era la precedente epidemia del coronavirus, era meno pericolosa. A cosa servono i guanti? La mascherina FFP3 e la mascherina da chirurgo, quali sono le differenze e in cosa sono efficaci rispettivamente, e le situazioni tipiche e la pericolosità di queste situazioni. Sì, fondamentalmente trovate il podcast sul canale Mixcloud, tutte le risposte a queste domande, che ovviamente sono frequenti da quando è iniziato tutto e sono state chiarificate dal nostro compagno Stefano, che salutiamo. La seconda pillola invece, che è andata in onda ieri, e troverete il podcast fresco fresco uscito oggi pomeriggio, è approfondimenti femministi per lottare contro il patriarcato anche in quarantena. Ci siamo proposti appunto di mantenere alta l'attenzione anche su dinamiche che non fanno parte del coronavirus, o meglio anche di momenti che vanno ricordati. Quindi c'è stato dei collegamenti telefonici con le nostre compagne Giulia, Tecla e Maya da Londra, che hanno parlato di Marielle Franco, di un libro che si chiama King Kong Theory di Virgin Despentes, Tecla ha letto delle poesie della Gualtieri e Maya ci ha aggiornato un po' sulla situazione londinese e ha aggiunto un contributo riguardo a Post Porno, un libro di Valentine Flux che trovate tutto online. Niente, mettiamo un po' di musica. Io oggi, per la lettura che seguirà, è una pillola un po' particolare perché volevo leggervi questo libro di William Burroughs, dopo magari faccio una breve introduzione, che si chiama La febbre del ragno rosso. E Burroughs in generale è molto collegato a una band che io apprezzo particolarmente e spero lo facciate anche voi, anche se magari non è il massimo di felicità, però sono i Joy Division. Perché questo? Perché Ian Curtis era un seguiva molto Burroughs nei suoi scritti, infatti possiamo trovare delle foto anche in internet che testimoniano che sulla sua libreria c'erano dei suoi libri e molti dei testi dei Joy Division hanno dei seri richiami alla sua letteratura. In questo caso si avvicinano molto anche a un altro scrittore che io apprezzo tanto, che è James Ballard, magari avremo occasione di ripescarlo anche per Radio Zam, e intanto io oggi faccio partire Closer. Fumiamo leggermente i Joy, bentornati, e volevamo anche parlarvi di quello che stiamo facendo a livello di solidarietà popolare a Milano Sud. Arrivano le prime richieste di sostegno alle persone che non possono o non vogliono lasciare il proprio domicilio per evitare il contagio. Il numero di telefono utile per chiamare è 351-0202-781 e il servizio è attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 15. Colgo l'occasione anche per ringraziare e salutare tutti i compagni e le compagne che sul territorio si stanno spendendo per questa causa, che secondo me è una delle poche che vanno fatte in questo momento. Infatti in questo momento ci chiedono di non far niente, però ci sono certe persone che a far niente non ce la fanno, anche perché ci rendiamo conto che c'è tutta un'altra parte di persone che ha bisogno di aiuto nel momento in cui si trova sola in casa o impossibilitata a stare a debita distanza perché vive in monolocali magari in 5. Ci sono già delle cose che magari non vengono dette, ma sono abbastanza scontate nel momento in cui c'è l'impossibilità di uscire, vengono a galla. Portiamo solidarietà sia a livello radiofonico che a livello di supermercati. E ci rendiamo disponibili. Ora Norberto, parliamo anche di un'altra cosa che per colpa di questo momento è purtroppo saltata, però non vogliamo che salti anche il ricordo e la memoria, quindi a te il microfono. Beh sì, dunque come ci ripetiamo sempre e come è giusto ripeterselo, la memoria è un ingranaggio collettivo e quindi va portata avanti collettivamente, quindi è giusto portare avanti i ricordi di compagni che si sono sacrificati nel passato, nel presente, e soprattutto portare avanti la memoria di chi non solo di chi ha dato la propria vita letteralmente per una causa. Una di queste persone era Dax, Davide Cesare, che è stato ammazzato ormai 17 anni fa. Precisamente domani ricorrerà l'anniversario, il 16 marzo. Il 16 marzo del 2003 Dax veniva ucciso dalle lame dei fascisti davanti alla birreria Tipota in via Brioschi, fascisti che sono rimasti pressoché ovviamente impuniti come sempre, fascisti che erano notoriamente simpatizzanti di estrema destra e che giravano tranquillamente con le lame in tasca. Il problema poi che non è finita lì, perché Dax è stato ammazzato dai fascisti, poi però i compagni solidali sono stati caricati all'ospedale San Paolo perché volevano andare a trovare il proprio amico una volta appresa la notizia della sua morte, stati caricati dalla polizia, dai carabinieri, in generale dalle forze dell'ordine, e la notte nera di Milano, come ricordato il 16 marzo del 2003, è passata alla storia perché è stata una vera e propria mattanza, una carneficina in un luogo che invece dovrebbe proteggere le persone, dovrebbe curare chi sta male e in cui le persone dovrebbero sentirsi protette e al sicuro, ed è invece diventato un mattatoio per un'intera notte. A ciò poi si sono aggiunte nei giorni successivi le calunnie della stampa, le menzogne dei quotidiani, dei media mainstream, che hanno derubricato il tutto a una rissa tra balordi, a una rissa tra alcolizzati, tra tossici, addirittura tra panca bestia, e andando così a screditare quella che in realtà era stato invece un vero e proprio scontro di carattere politico, e la politica era alla base di quello scontro lì. Ovviamente Poi non è finita qui, perché a ciò si sono anche aggiunte l'impeccabile operato della magistratura, come al solito, che ha condannato dei compagni a risarcire lo Stato di 130.000 euro, convertito in un quinto in pignoramento di un quinto dello stipendio, che equivale a un ergastolo pecuniario per chi ha un reddito medio-basso. Ovviamente noi abbiamo sempre manifestato solidarietà con questi compagni, abbiamo sempre raccolto i soldi per poterli aiutare, abbiamo sempre ricordato Dax. In 17 anni non abbiamo mai mancato un solo momento di ricordo, perché ricordare Dax significa ricordare che i fascisti non sono morti nel 45 e chi lo afferma è in malafede, che i fascisti ancora oggi uccidono, ma che soprattutto il fascismo oggi si manifesta in diverse forme, perché se è vero che non abbiamo le squadracce in camicia bruna per le strade, è vero che i momenti di sopraffazione, i momenti di violenza e di prevaricazione nella nostra società ormai non si contano neanche più. Basta soltanto ricordare l'attacco che ha subito il ragazzo omosessuale di recente. Esattamente, esattamente, assolutamente, ma ogni giorno c'è il modo tacito in cui passano tutti i femminicidi quotidiani è già fascismo, perché è prevaricazione, perché è violenza, il fatto che sfruttiamo le risorse della terra senza un ritegno, senza un controllo e senza pensare che queste risorse ci serviranno per i prossimi anni è una sorta di fascismo. Il fascismo ha tante facce e vanno combattute tutte, il fascismo si manifesta in diverse forme e noi dobbiamo sempre farci trovare i nostri posti per ricordarci e per ricordare a tutti che essere umani significa essere antifascisti. Grazie Norberto, ci speravo che facessi questo contributo, ringraziamo anche i compagni e le compagne che ci stanno ascoltando in questo momento, fioccano i messaggi e vi lasciamo con un breve intervallo musicale e torniamo tra pochissimo. Roberto, Hank fa così quando ha il caldo sotto il pavimento e scava, perché i cani scavano per togliere il caldo. Lo vedrai fare spesso questa cosa. Non lo sapevo. Quindi siamo tornati, in realtà non ve lo diciamo, ma ve lo diciamo lo stesso, abbiamo parlato 5 minuti con i microfoni spenti. E anche molto bene. E anche molto bene, quindi ripetiamo da capo, verrà ancora meglio. Di solito a me piace una buona la prima, però non è stato possibile. Quindi siamo arrivati al punto più ciccione di questa puntata, che è la lettura di questo libro. Il libro in questione è scritto da William Seward Burroughs, a detta di molti il padre della B-Generation, a detta sua no, in realtà, però il più anziano di loro, quindi comunque quello che li ha formati meglio. La sua storia è molto particolare, però magari non sto a raccontarvela adesso, ne parliamo in un altro momento. In realtà, tossicodipendente da tenera età, figlio di una famiglia molto molto benestante, ha studiato un po' medicina, poi ha mollato gli studi, non ha quasi mai lavorato un giorno della sua vita se non come disinfestatore, che è un tema che riecheggia molto nei suoi scritti. E a un certo momento nella sua vita lui nascondeva la sua omosessualità, infatti era sposato con una donna e condividevano l'amore per la droga. Ovviamente due tossicodipendenti insieme non possono fare che danni. Fondamentalmente stavano giocando a Guglielmo Tell con una pistola e una mela e accidentalmente Barrox ha sparato in testa alla moglie. La moglie è morta e in quel periodo, un periodo molto caldo per la Beat, perché stavano già passando dei problemi per un altro omicidio in cui erano coinvolti, lui ovviamente ha avuto un crollo incredibile, è scappato e si è rifugiato a Tangeri sotto consiglio dei suoi amici Allen Ginsberg e Jack Kerouac. Nel suo esilio a Tangeri ovviamente la dipendenza dalle droghe è aumentata e quando è passato un po' di tempo i suoi amici preoccupati sono andati a trovarlo e l'hanno trovato in una situazione paranoide. Era convinto che la CIA lo stesse seguendo, aveva fogli di macchina da scrivere in tutta la stanza sparsi ovunque ed era convinto che li avesse messi la CIA, al che Jack Kerouac gli consiglia di tornare con lui a Parigi, mettere a posto i fogli manoscritto che c'era in giro ed editarlo dal suo editore francese sotto il titolo Il Passo Nudo. E in questo, questa è la storia del racconto, cioè la storia del fondamentalmente di come è nato il romanzo più importante di tutta la letteratura di Barrox. In questo caso vi leggo un altro romanzo molto più piccolo e si differisce perché Il Passo Nudo è fondamentalmente illeggibile perché è scritto col metodo del cut-up, ovvero un discorso che ha senso, tagliuzzato e rimescolato prende un senso diverso, ma ovviamente è molto complicato. E invece questo qua segue un filo logico, è una storia. Vi leggo il retro di copertina. All'inizio del XVIII secolo, il pirata Mission fonda in una remota baia del Madagascar la colonia Libertatia, per dimostrare che 300 sbandati, pirati, marinai disertori e schiavi liberati, possono coesistere in relativa armonia fra di loro e con l'ambiente circostante. Nella casa che Mission ha ricavato da un'antica e misteriosa struttura, vive anche un lemure chiamato Fantasma. Nel loro legame si rispecchia l'unione tra le due parti dell'organismo umano. L'una scivola dentro a un'incantata innocenza senza tempo, l'altra avviata inesorabilmente verso il linguaggio, il tempo, l'uso di strumenti, la guerra, lo sfruttamento e la schiavitù. Una sera Mission assume una dose sconsiderata di cristalli di Indri, una potente droga, e inizia un viaggio a ritroso nel tempo. La caverna si trasforma nell'ingresso al biologico giardino delle occasioni perdute, in cui sono contenuti tutti i morbi insiti nello stampo dell'uomo. Le sette piaghe d'Egitto, i peli, i sudori, che si liberano quando lo stampo si spezza. In questa breve e allucinata avventura tropicale, Barrox dà corpo con sconcertante precisione a una delle angosce peculiari dei nostri anni, quella di appartenere ormai a una nuova età dei virus, dove mali inauditi si scatenano come vendette ancestrali o come risposte a una lesione sprovvenuta nella fisionomia umana. Where a hope sings to you. Il capitano Mission allacciò la tracolla del moschetto a doppia canna, che portava sempre carico, e si infilò alla cintura un coltellaccio protetto dal fodero. Prese il bastone e si incamminò nell'insediamento, formandosi qua e là a parlare con i coloni. Avevano trovato un'eccellente argilla da mattoni e stavano costruendo abitazioni a due piani, con le balconate del piano superiore sostenute da pesanti pilastri di legno duro. Queste costruzioni erano state unite a formare una fila, con la cucina e la sala da pranzo, nelle due stanze al piano terra e la camera e lo spogliatoio al piano di sopra. Le balconate erano comunicanti e venivano usate per amache e giacigli. Le strutture guardavano il mare e gli scalini portavano alla baia, dove erano ancorate parecchie imbarcazioni. Nella lingua indigena, la parola lemure significa fantasma. C'erano dei tabù contro l'uccisione dei fantasmi e Mission aveva imposto un articolo che la proibiva esplicitamente, pena l'espulsione della colonia. Se c'era un crimine che meritava la pena, in questo caso la pena di morte, a sua volta proibita dagli articoli, era proprio questo. Mission stava cercando esemplari di una diversa specie di lemure, descritti da un informatore indigeno come molto più grandi del normale, grandi come vitelli o giovenche. Dove sono questi fantasmi più grandi? L'indigeno fece un gesto vago verso l'entroterra. Devi fare attenzione alla lucertola che cambia colore, è cattiva. Se subisci il suo incantesimo, cambierai colore anche tu. Diventerai anche tu nero di rabbia, verde di paura e rosso di sesso. Beh, che cosa c'è di male? Entro un anno morirai. I colori ti divoreranno la pelle e la carne. Ma stavi parlando di fantasmi molto grossi, più grossi di una capra. Dove posso trovarli? Se senti il verso dell'uomo negli alberi, allora non c'è il grande fantasma. Lei non può stare dove c'è rumore. Lei. Lei, lui. Per il grande fantasma è la stessa cosa. E così si trova dove non c'è l'uomo negli alberi? No, si trova dove l'uomo negli alberi non fa rumore. Questo accadeva all'alba e al tramonto. Mission era diretto verso l'entroterra, su per un ripido sentiero che smetteva di salire un paio di centinaia di metri sopra il livello del mare. Si fermò, appoggiandosi al bastone e si girò a guardare. La dura arrampicata non gli aveva dato l'affanno, né peraltro di sudore alla faccia. Guardò l'insediamento dall'alto, i mattoni rossi e la paglia appesa, messi in opera e già eterni come le case del paese delle fate. Vedeva le ombre sotto il molo, i pesci nascosti, l'acqua limpida e azzurra della baia, le rocce e il fogliame, tutto dentro un quadro vivido, privo di cornice. Il silenzio scese come un sudario, pronto a polverizzarsi al primo movimento di Mission. Una folata di vento, carezzevole e giocosa come una zampa di gatto, attraversò la baia e salì su tra le foglie e le felci, portando fino a lui un alito di panico. Piccole zampe di fantasma gli percorsero la spina dorsale, facendogli rizzare i peli sulla nuca nel punto in cui il centro della morte si incendia brevemente al momento della fine di un essere mortale. Il capitano Mission non temeva il panico, l'improvvisa e intollerabile consapevolezza del fatto che ogni cosa è viva. Era lui stesso un emissario del panico, della conoscenza che l'uomo teme più di ogni altra, la verità sulle proprie origini. È così chiaro. Basta spazzar via le parole e guardare. Mission si fece strada tra i rampicanti e le felci giganti, nell'ombra verde senza bisogno del coltellaccio, e si fermò sul bordo della radura. Un istante di arresto improvviso, poi un cespuglio, un sasso, un tronco si mossero. E apparve una tribù di lemuri, dalla coda ad anelli colorati. Marciavano avanti, indietro, l'uno intorno all'altro, le code tremanti sopra la testa, poi scomparvero, portandosi dietro lo spazio che avevano occupato. In lontananza Mission sentiva il verso dei lemuri, che gli indigeni chiamano uomo negli alberi. Con una mossa svelta, Mission catturò una cavalletta e si inginocchiò accanto a un tronco coperto di muschio. Una faccetta minuscola con gli occhi tondi e grandi orecchie tremanti lo scrutò nervosamente. Mission le offrì la cavalletta e la piccola lemure dopo la afferrò con squittii e strilli di tenerezza, tenendola tra le zampette per mangiarla a morsi veloci coi denti minuscoli e aguzzi. Mission si diresse verso il rumore, che si faceva sempre più forte. Ora in quel momento. L'uomo negli alberi lo vedeva. E mandarono un urlo concentrato che gli forò i timpani. Poi all'improvviso il rumore tacque e con un impatto lo scaraventò a terra. Restò là per qualche istante, semisvenuto, a guardare le sagome grigie allontanarsi dondolando tra i rami. Si alzò in piedi letteralmente, appoggiandosi al bastone. Davanti a lui c'era un'antica struttura di pietra, coperta di rampicanti, verdi e di muschio. Passò sotto un'arcata, calpestando lastre di pietra. Un grosso serpente, di un verde vivo, luccicante, scivolò giù per i gradini che portavano a una stanza sotterranea. Mission lo seguì con cautela. In fondo alla stanza, un'altra arcata, aperta, lasciava entrare la luce del pomeriggio e si vedevano pareti e soffitto. Nell'angolo della seconda stanza c'era un animale che sembrava un piccolo gorilla o uno scimpanzé. Questo sorprese Mission, perché gli avevano detto che non c'erano vere scimmie sull'isola. La creatura era assolutamente immobile e nera, come ritagliata nell'oscurità. Vide anche una grossa creatura simile a un maiale, color rosa pallido, sdraiato pigramente su un fianco contro la parete alla sua destra. Poi, proprio di fronte a sé, vide un altro animale che sulle prime gli sembrò un cerbiatto. Si avvicinò alla sua mano tesa e Mission si accorse che non aveva corna. Il muso era lungo e dentro la bocca si intravedevano denti aguzzi come piccole scimitarre. Le zampe lunghe, agili, finivano in dita sottili come cavi. Le orecchie erano grosse, sventola, gli occhi ambra, limpida, in cui le pupille galleggiavano come un gioiello scintillante, cambiando il colore con le variazioni della luce. Ossidiana, smeraldo, rubino, opale, ametista, diamante. L'animale alzò lentamente una zampa e gli sfiorò la faccia, risvegliando ricordi dell'antico tradimento. Con il viso inondato di lacrime, Mission gli accarezzò la testa. Sapeva di dover far ritorno al villaggio prima di sera. C'era sempre qualcosa che un uomo deve fare per tempo. Per il cervo fantasma il tempo non esisteva. Giù e giù di corsa per il fianco della collina, strappandosi gli abiti tra le rocce e gli arbusti spinosi, e al crepuscolo Mission era di ritorno al villaggio. Capì subito di essere arrivato tardi, capì che era successo qualcosa di orribile, nessuno lo guardava negli occhi. Poi vide Bradley Martin, ritto sopra un lemure agonizzante. Il lemure era stato trapassato da un proiettile. La rabbia che assalì Mission si concentrò in un'onda rosso fuoco. Martin non provava niente di simile. «Perché?» disse con una voce stranzata. «Mi ha rubato un mango», borbottò Martin in tono insolente. La mano di Mission volò al calcio della pistola. Martin rise. «Hai intenzione di violare il tuo stesso articolo, capitano?» «No, ma voglio ricordarti l'articolo 23. Se due persone non riescono a dirimere una controversia, è impossibile applicare la regola del duello». «Certo, ma io ho il diritto di non raccogliere la tua sfida, ed è proprio quello che farò». Martin non era granché come spadaccino, e nemmeno come tiratore. «Allora te ne dovrai andare a Libertatia, questa sera stessa, prima che il sole tramonti. Ti rimane un'ora scarsa». Senza una parola, Martin si girò e si allontanò in direzione del suo alloggio. Mission stese una tela cerata sopra il lemure morto e con l'intenzione di portare il cadavere nella giungla e seppellirlo la mattina dopo. Nel suo alloggio, Mission venne improvvisamente sopraffatto da una stanchezza paralizzante. Sapeva che avrebbe dovuto seguire Martin e sistemare la questione subito, ma come aveva detto Martin, i suoi articoli. Si sdraiò e cadde immediatamente in un sonno profondo. Sognò di lemuri sparsi per il villaggio e si svegliò all'alba con la faccia inondata di lacrime. Si vestì e uscì per prendere il cadavere del lemure, ma l'animale e la tela cerata erano spariti. Con chiarezza capì perché Martin aveva ucciso il lemure e cosa intendeva fare. Sarebbe andato dagli indigeni a raccontare che i coloni uccidevano i lemuri, che lui aveva protestato ed era stato costretto a scappare per salvare la pelle. I lemuri erano sacri per gli indigeni della zona e c'era il pericolo di una sanguinosa rappresaglia. Mission si rimproverò aspramente di non aver permesso a Martin di scappare. Ormai non aveva più senso andare a cercarlo. Il danno era fatto e gli indigeni non avrebbero mai creduto ai suoi dinieghi. Big Ben scandisce i rintocchi dell'ora. In una stanza silenziosa, spettrale, sono radunati i custodi del futuro. Conservatore dei libri del consiglio, Mektub, sta scritto, e nessuno vuole cambiarlo. Se 300 uomini, poi 3.000, poi 30.000, potrebbe diffondersi dappertutto, bisogna provvedere subito. C'è il nostro Martin sul posto, una persona fidata. Una donna si sporge leggermente in avanti, una sorprendente faccia di eterna bellezza e malvagità, una malvagità che toglie il respiro, come un gas letale. Il presidente si copre il viso con un fazzoletto. La donna parla con voce fredda, secca, ogni parola una scaglia di ossidiania. C'è un pericolo ancora più grande. Mi riferisco al malsano interesse del capitano Mission per i lemuri. La parola scivola fuori da una bocca frenante d'odio. Non ci sono ulteriori ripercussioni dell'incidente con Martin, ma Mission non abbassa la guardia. Sa che Martin è là fuori, in attesa del suo momento, con la fredda pazienza del rettile del perfetto agente. Aveva sottovalutato Martin fin dal principio perché non l'aveva visto. Martin aveva la capacità di creare una mancanza di interesse nei confronti di se stesso. Perfino la sua posizione era ambigua. Qualcosa tra il sottufficiale di Martin era il semplice membro dell'equipaggio. Ma dato che non c'erano sottufficiali, occupava uno spazio vuoto e non faceva tentativo alcuno di riempirlo. Quando gli veniva detto di fare qualcosa, eseguiva in modo veloce ed efficiente, ma non tentava mai di rendersi utile. Dato che trovava ogni contatto con Martin vagamente sgradevole, Mission gli chiedeva di fare sempre meno. Mission non era contento che Martin avesse scelto di unirsi ai coloni, ma del resto faceva la sua parte di lavoro e non dava fastidio a nessuno. Quando non lavorava, se ne stava semplicemente seduto, la faccia vuota come un piatto. Era grosso, trasandato, con un viso rotondo, scialbo e capelli gialli. Aveva gli occhi ottusi e freddi come il piombo. Mission vide Martin per la prima volta quando si affrontarono sopra il lemure morente e quello che scoprì gli ispirò un odio mortale, implacabile. Ora vede Martin come il servo prezzolato di tutto ciò che detesta. Non ci sono tregue e compromessi possibili. Questa è guerra di sterminio. Mission aveva fumato oppio e hashish e aveva preso una droga che gli indios sudamericani chiamano yagé. Ci deve essere, decise, una droga particolare, tipica di questa enorme isola, dove ci sono tante creature e piante introvabili altrove. Dopo qualche ricerca scoprì che la droga esisteva. Veniva estratta da un fungo parassita che cresceva solo su una certa pianta spinosa nelle regioni aride del sud. La droga si chiamava Indri, che nella lingua locale significa guarda bene. Ne comperò una piccola quantità da un indigeno gentile per 5 fiorini d'oro. La droga era in forma di cristallo giallo-verde. L'uomo, che si chiamava Babuki, gli mostrò quanto a prenderne esattamente e lo mise in guardia contro un uso smodato. Molti prendono l'Indri e non vedono niente di diverso. Allora ne prendono un po' di più e vedono troppe cose diverse. Ma è una droga da giorno o da notte? Il momento migliore per prenderla è l'alba, o il crepuscolo. Mission calcolò che mancava un'ora al tramonto, quanto bastava per tornare al suo rifugio nella giungla. Ma scusa, quanto ci mette a fare effetto? Pochissimo. Mission si mise in cammino, a passi rapidi. Mezz'ora dopo, prese una piccola quantità di cristalli con un sorso d'acqua dalla borraccia di pelle di capra. Dopo pochi minuti, sperimentò un cambiamento nelle proprie capacità visive, come se i suoi occhi si muovessero su cardini diversi, e vide, per la prima volta, la lucertola che cambia colore. Era piuttosto grossa, lunga una sessantina di centimetri e difficile da scorgere, non perché si mimetizzasse con i colori dell'ambiente circostante, ma perché era assolutamente immobile. Si avvicinò all'animale, che fissò un occhio su di lui e si fece nero di rabbia. Evidentemente, la lucertola che cambia colore non amava essere vista. I suoi colori scemarono fino a un giallo arancione neutro macchiato di marrone. Ed ecco una lucertola gurca su un ramo. Come scolpita nella corteccia, strizzò un occhio dorato in direzione di Mission. Nonostante la necessità di stare allerta, Mission passava sempre più tempo nella giungla con i lemuri. Aveva trasformato l'antica struttura di pietra nella sua casa. era completamente avvolta dalle radici di un enorme albero bulboso, come dalle dita di una mano gigantesca. L'arcata aperta nella seconda stanza era adornata di festoni di radici. C'era un pavimento lastricato. Mission aveva preso una zanzariera all'ingresso e sistemato un giaciglio sul pavimento. Spazzando il pavimento, fu sorpreso di trovare pochissimi insetti, nessuno dei quali velenosi. I gradini di pietra erano levigati, come se fossero stati calpestati da una quantità di piedi, forse non umani. Dopo il primo incontro, Mission aveva localizzato un branco di quei grossi lemuri. Erano troppo pesanti per vivere sugli alberi, così stavano per lo più a terra o in una zona della foresta dove gli alberi si diradavano per far posto a erba e cespugli, a un miglio circa dal rifugio di Mission. Ideale terreno da pascolo, pensò Mission con un brivido. Erano creature fiduciose, dolci e pronte ad affezionarsi all'uomo. Mission si affrettò. Voleva raggiungere l'antica struttura di pietra prima del crepuscolo e sperava di trovarvi il suo lemure speciale. Dormiva spesso sul giaciglio con l'animale accanto e l'aveva battezzato Fantasma. All'arrivo di Mission, Fantasma emise un leggero grido di benvenuto. Il capitano si tolse gli stivali e appese i vestiti a una serie di ganci di legno infilati nelle fessure della roccia. L'unico mobile era un tavolo di assi grezze appoggiato alla parete e sostenuto da due sole gambe, con sopra calamaio, penne d'oca e pergamena. In un angolo c'erano un barilotto d'acqua con la spina, alcuni utensili da cucina, un'ascia, una sega, un martello e un moschetto. Polvere e proiettili erano in un piccolo baule. Capitano Miscio. No, basta, dai. Grazie Norberto per la compagnia. Il primo grazie capitolo te, è stato spulciato. Se riusciamo andiamo avanti anche durante la settimana. Se vi è piaciuto mandateci dei messaggi. Vi ricordiamo il nostro canale Telegram per rimanere informati su tutte le notizie che passiamo, la nostra pagina Facebook per scriverci, il canale Instagram tenuto da Cigo, che salutiamo. Grande Cigo in quarantena da Sago, che sta diventando Repubblica Autonoma. Che gestisce la pagina Instagram, quindi siamo attivi anche su quella. Su Mixcloud, digitando Radio ZM, trovate i podcast. Che dire? Andiamo a mangiare? Grazie a tutti, andiamo a mangiare e buona serata a tutti, anche a Cigo. Soprattutto a Cigo.